primis c'è la ricostruzione dell'area tecnica e quindi con a capo sicuramente una persona di carisma e abbia, come dire, intorno a sé delle persone stimate e che anche all'interno, al loro interno possono lavorare in sintonia. La Mura sicuramente farà parte di questo programma perché io ritengo non si possa perdere il suo sapere e anche il suo sistema, il suo metodo, e quindi sicuramente dovrà ancora, almeno per questo quadriennio, portarci avanti con le sue idee. Da qui a Rio naturalmente dobbiamo anche lavorare in funzione di un passaggio di testimone poi con la Mura.